24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Se Berlusconi andrà in carcere, io credo che dovremmo fare un turno, una sorta di sentinelle delle libertà. E se Berlusconi sceglierà i servizi sociali, io come candidato premier chiederò il permesso di poter fare i servizi sociali pure io con lui. Quindi se Berlusconi servirà a tavola alla comunità di Sant'Egidio, si preparino, Rotondi farà anche lui il cameriere. Io lo adoro, lo dico sempre di più ogni giorno, Gianfranco Rotondi, non posso vivere senza le sue battute, frasi, no? Ma l'avete sentito, se va ai servizi sociali io con lui a fare il cameriere alla comunità di Sant'Egidio. Gianfranco Rotondi è un mito assoluto con queste battute, sono battute, sì. No, va bene, no, sono dichiarazioni vere, serie, non lo so. Comunque, sono le 6:33 minuti e voglio salutare in questo lunedì Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Sono lì sempre. Oggi è lunedì, inizia una settimana decisiva. Per la precisione, la 20ª settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 20ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Evviva! Può aprire dunque il nostro Parlamento e siamo qui pronti! Il caffè volentieri a tutti quanti. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Trottere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Eccoci qui, ci siamo proprio tutti, evviva! Allora, puoi iniziare questa settimana, voglio subito salutare Matteo Salvini, Verde Padano. Buongiorno Salvini, come va? Buongiorno, evviva, va bene. No, meglio, no. Spero che vada meglio. Non è. Se andasse come il Milan saremmo rovinati, abbiamo una squadra imbarazzante. Abbastanza, questa. È arrivato il fantasmagorico Kakà. Oh, secondo me è uno che si farà, uno buone chance, diventerà un campione. Diventerà come Rotondi. Come Rotondi, effettivamente. Salvini, le presento il nostro mitico, unico, inimitabile Albertone Forchielli. Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, buongiorno e benvenuto. Ciao. Dove si trova Alberto Forchielli? Sono a Hong Kong. A Hong Kong, giustamente, il presidente dell'Osservatorio Asia, da lì ci parla. Che ne pensano, Forchielli, di Rotondi a Hong Kong? Ma sono domande di prima mattina. Dai, cambia disco. È pomeriggio. A Hong Kong è pomeriggio, però. Quindi, so. Ma dai, non so neanche io chi sia. Non c'è la politica sui giornali, no? Italiano non esiste. Esiste il ribaltamento della Concordia adesso che la raddrizza. Infatti stamattina mi sono svegliato. E poi le condanne di Bunga. Ci arriviamo. Infatti stamattina mi sono svegliato e ho pensato, Salvini, chissà se raddrizziamo la barca oggi in Italia. Salvini, si potrebbe essere il pensiero di prima mattinata. Ma in la figura di merda, ma notizia è che poi probabilmente ci saranno i plastici in studio da Bruno Vespa con la vaschetta, con l'acqua dentro. Non voglio fare il serioso perché lunedì mattina è già una giornata un po' innervosente, però insomma, con tutto quello che ci sarebbe da approfondire. Adesso lo approfondiamo, facciamo due conti. Cos'è che diceva Forchielli? Chissà cosa ne penserà anche Schettino di questo momento, no? Sì, no, difatti io sono molto preoccupato di quello che pensa Schettino. Dentro lui dovrebbe essere più preoccupato di quello che penso io di lui. Che non vogliamo saperlo, perché è già in passato qualcosa. No, è inutile esternare. Allora parliamo del. Io oggi ho letto i giornali e ho sempre pensato, e ho fatto questa battuta: i miei due urini in tasca io li ho sempre pronti, se lor signori al governo li vogliono, perché ho capito che servono 4,5 miliardi da qui a fine dicembre. Per che cosa? Aumentare, evitare l'aumento dell'IVA, coprire il fatto che abbiamo cancellato l'IMU. servono forchielli 4,5 miliardi, questi dai calcoli dei giornali, un miliardo subito in 15 giorni per evitare l'aumento dell'IVA. Io ho due eurini, dove li becchiamo gli altri soldi? Ma la mia reazione istintiva va al povero Sacco Manni, che dopo 40 anni di dignitosa carriera alla Banca d'Italia aveva fatto 13 ed ha stracciato la schedina. Adesso gli tocca taroccare i numeri, i conti che non quadreranno mai, nessuno è scemo. Cioè, perché le entrate fiscali, ovviamente, col PIL ridotto così, non saranno quelle che devono essere. I soldi li trovano con dei decreti a venire, per cui. Ma poi guardi, che sia 3.2, 3.3, il problema è che senza crescita un aumento del debito del 3% all'anno alla fine ci porta inevitabilmente in una situazione di default. Il 3% è studiato per un'economia che può avere un e mezzo di inflazione e un e mezzo di crescita, allora ci sta. Ma capito? Se non cresce, bassa, che non cresce, chi è? Ma neanche il 3% basta. Quindi che facciano il 4%, se fanno anche il 4% vuol dire che arriveremo più rapidamente alla resa dei conti. Cioè è sforare quel 3% che ci chiedono i patti europei. Tra l'altro, è rilevante. Salvini su questo in passato, anche lo stesso Berlusconi aveva detto bisognerebbe sforare il 3%. Come la vede Salvini l'Europa, visto che da europarlamentare è questo gioco del 3% a cui dobbiamo sottostare, oppure sono giusti i conti da mantenere perché altrimenti la barca affonda? No, sono giusti i conti da mantenere per mandarci nel burrone. Sono d'accordo con Forchielli, lo dico da chi ci lavora a Bruxelles. Questa Europa e questo euro sono il nostro cappio al collo. Sono la fregatura più solenne degli ultimi 50 anni, purtroppo, da europeista convinto e da milanese che vive e abita nel cuore dell'Europa. E quindi sono assolutamente convinto, più leggo i numeri e più vado in Parlamento europeo tutte le settimane, che se non lasciamo questo euro e non ribaltiamo questo sistema è finita. Cioè fuori dall'euro bisogna. È finita, ci trasciniamo di mese in mese, adesso serve un miliardo. Io ricordo a me, a lei e a Forchielli, a chi ci ascolta, che dall'anno prossimo, avendo il Parlamento italiano votato quella porcheria che è il fiscal compact, con l'unico voto contrario della Lega, noi ogni anno dobbiamo trovare 50 miliardi di euro, quindi non 4 miliardi. Vabbè, ma la soluzione è uscire dall'euro, su questo non so se Forchielli la segue. La soluzione, per quanto mi riguarda, è ridiscutere tutto e, se serve, uscire dall'euro, assolutamente sì, altrimenti serve. È finita. Forchielli, è una via d'uscita anche estrema uscire dall'euro? Un po' drammatica, sì, voglio dire, decurta il potere d'acquisto degli italiani adesso in modo tragico. È chiaro che la svalutazione è sempre stata la nostra arma migliore, perché per svalutare non c'è bisogno di andare in Parlamento, quindi è l'unica tassa che si riusciva a imporre agli italiani in modo indolore. Abbiamo deciso di fare la sfida dell'euro, non siamo stati all'altezza. Ho capito, ci ritiriamo. Cosa facciamo? Ci ritiriamo. Ci ritiriamo, non sia stata. Ritirarsi vuol dire praticamente fregare milioni di persone a reddito fisso, perché l'inflazione andrebbe alle stelle. E poi sì, un caos giuridico pazzesco. Quindi non lo so. Sia, è una strada quella di Salvini che sento, ascolto, però non c'è nulla in discesa, ecco, da qui in avanti. O meglio, l'unica discesa è quella che ci porta nel burrone. Sì, di sicuro tutte queste rassicurazioni di Letta non servono assolutamente a niente. Cioè, non è che il mondo conti sul fatto della stabilità di governo, perché il mondo, i mercati finanziari sono abituati all'instabilità di governo italiano, quindi che sia un governo sia stabile o meno non gliene frega niente a nessuno. L'unica cosa che guardano è che ci sia un tesoro che fa le cose giuste, e questo governo ha fatto tutte le cose sbagliate, per cui le spread con questo governo hanno superato le spread spagnole. In realtà Letta, invece di uniformarci ai rendimenti dei titoli tedeschi, in realtà è un bundaniere in incognito. Cos'è invece che è? Di pensare alle spread, invece che pensare alle spread, Letta si beve degli spritz. E a noi ci fa credere che la stabilità del suo governo è fondamentale per la stabilità finanziaria dell'Italia. Cioè, Letta invece che lo spread si beve gli spritz, no? Questa. Sì, lui invece che pensare alle spread si beve gli spritz. Poi ci racconta delle palle, che da quando è arrivato lui siamo più pericolosi della Spagna. Ma cos'è che è un boom? Governo eravamo 20 punti sotto. Cos'è che hai detto un boom daniere? E poi questo è un boom daniere, Ma cosa vuol dire un boom daniere? Cioè... Ma è un boom daniere, te lo capisci da solo, adesso non mi fare da dizionario. Non mi fa da Zanichelli, parli da Zanichelli, guarda che sono dei bundanieri, se non c'è chiamala Zanichelli, chiamala Zanichelli. È pericolosissimo però, bundaniere. È un bundaniere. Poi sai tutte quelle robe, non so, rassicuri i dipendenti del gruppo Riva che non saranno lasciati soli, a par forza, sono in compagnia di altri 900.000 cassi integrati. Si va anche solo che si aggiungono quelli della TAV, queste cose. Da Babbo Natale, capito? Ah certo, Salvini, questa è la visione di Forchielli del nostro governo. Beh, con Salvini sfondiamo una porta aperta. E cosa devo fare? Devo difendere Letta? No, infatti detto, eccolo qui il difensore di Letta, Matteo Salvini. Ma non ci penso neanche. A proposito dell'Europa e dell'euro non c'è niente di facile, non è che stiamo a vendere certezze gaudenti, però sicuramente avanti di questo passo è finita. Io penso che un'uscita dall'euro, ma ci sono fiori, non c'è Salvini che è l'ultimo degli scemi, ci sono fiori di professori universitari da Borghi a Bagnai a Rinaldi che sostengono esserci più vantaggi che svantaggi dal mollare questa moneta unica, perché è l'unico modo per salvare il lavoro e far ripartire l'economia, la produzione e i consumi interni. Quindi ripeto, o andiamo avanti con questa lenta agonia, sentivo parlare degli operai della Riva, oggi ci sono manifestazioni in 7 città perché ci sono 1500 posti di lavoro a rischio, ma perché l'Europa, a parte le beghe interne italiane, ha deciso quanto acciaio possiamo e dobbiamo produrre, quanto latte dobbiamo produrre, quanta frutta dobbiamo produrre, quanti mobili dobbiamo produrre, quante macchine dobbiamo produrre. Ho capito, siamo così, siamo in Europa, che dobbiamo fare? Nel bene e nel male. Ma o la ridiscuti questa Europa, tagliata su misura della Germania e del Nord Europa, oppure se uno muore, se mi dicono... Tu ti stai per schiantare e posso provare a sforzare oppure devo andare dritto perché mi hanno detto guarda ti stai per schiantare però è giusto così, è giusto così, questo sì palle. Allora ecco, editoriale anche di Salvini. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi dopo la segreteria telefonica parliamo un po' di politica con Renzi che dice li asfaltiamo quelli del PDL, parleremo anche un po' di Berlusconi e anche della Lega, perché Matteo Salvini chissà, forse è il prossimo segretario della Lega e ce l'abbiamo qui, chissà. 24 mattino. Alessandro Milan, quanto costano questi cazzo di immigrati clandestini a noi italiani? Me lo può far sapere precisamente, fa una ricerca approfondita e lo dice in radio? Io non voglio pagare per questi clandestini, c'ho due figli disoccupati. Ciao Alessandro, volevo solo salutarti. Sono un artigiano, lavoravo a Bergamo e lavoro fino ad oggi. Mi trovo costretto, grazie ai nostri cari politici, a chiudere ditta e ad andarmene a lavorare in Svizzera come si usava tanti anni fa. Questo è quello che sanno fare, mandarci via dal nostro paese pur di non togliersi un granello del loro paradiso. Ciao a tutti, buon proseguimento, mi mancherà la tua trasmissione. Ci vuole il ritorno di un certo Cossiga, che quello sì che picconava. Io ho votato 5 Stelle, non mi sono trovato d'accordo su tutta la linea di Grillo, però una cosa la sta dimostrando all'Italia e al mondo intero, e cioè che siamo governati da una massa di pagliacci e incapaci. Mi vergogno persino di essere italiano. Napolitano non amato. Caro Milan, questa classe politica mi fa vomitare. Milan, Michele, ascolti, sto ascoltando la trasmissione col presidente Sisto, ma dica quello che pensa, sono tutti uguali, ma no, sta dicendo una boiata dietro l'altra e lei si sta trattenendo, ma glielo dica, sono ridicoli, ma ci prendono in giro e non riusciremo neanche a tirarli più giù, ci ciucciano i soldi, è un'appropriazione indebita. Eccola qui la nostra segreteria telefonica, siamo con Matteo Salvini della Lega e con Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Allora, Forchielli, invece di Berlusconi parlano Hong Kong, che dicono? No, praticamente mai. Adesso mai. Vediamo con le sentenze, queste cose qui, ma non mai. Leggo tutti i giorni South China Morning Post, mai. Bunga con Mediaset ha un petardo nelle chiappe. È sulla strada per l'asinare e dovrebbe bersi il bicchierino d'acquaraggio per sciogliere il colesterolo. Lo ritengo abbastanza fuori gioco. Sì, con questa immagine. Cos'è di Letta? Di Letta ho già parlato. Poi c'è Cooperlo. Cooperlo è pesante come una pizza ai capi alle mezzanotte. Sembra un testimone di Geova quando ti suona alle 7 di mattina con la Bibbia evangelica. Io non gli do 50 lire. Ho capito, ma uno di quelli, cioè l'altra volta c'era... Renzi, e rimane Renzi. Renzi è più viscido di un'anguilla dentro un preservativo. Certo, gli altri hanno lasciato cadere la famosa saponetta e sniacchi. Per cui ha quasi ragione lui, capito? Questa è la visione della politica. No, vabbè, c'è la Lega a questo punto, Salvini. Qua abbiamo c'è Forchielli, si è svegliato oggi a Hong Kong. Mi sto apprestando a far la doccia, ovviamente, finito, ovviamente l'immagine dell'anguilla nel preservativo mi preoccupa. abbastanza. Verificherò le condizioni della doccia. No, poi attenzione, Salvini, perché Forchielli... è dell'idea di non fare mai la doccia con Renzi, perché se cade la saponetta lui cioè questo, voglio dire, lo stesso. Ma la segreteria sono belli incazzosi, io però rispondo così magari ne faccio incazzare qualcuno e poi ne chiacchieriamo su Facebook, che invece la buona politica esiste, non parlo della Lega o di me stesso evidentemente, ma di tanta gente che lo fa a gratis nei comuni, e la buona politica esiste, è fortuna che esiste la buona politica, perché senza la buona politica ci sarebbe l'anarchia, ci sarebbe il caos generalizzato. Poi che ci sono politici ladri o incapaci fuori discussione, però fortuna che esiste, che chi si dedica alla cosa pubblica, altrimenti saremmo messi peggio. A proposito di buona politica, dai Salvini, su, segretario della Lega, prossimo segretario, tanto ormai si dice o Salvini o Tosi, adesso Salvini, no, ma finché c'è Maroni. L'unica cosa che vi posso dire è che sicuramente non sto litigando con Tosi, tranne che per motivi calcistici che ci dividono profondamente, ma quello che facciamo lo facciamo di comune accordo, visto che... Abbiamo profili diversi e lui è uno dei sindaci migliori che esistano in questo momento sulla piazza, quindi non stiamo a litigare, ma non abbiamo l'ansia da congresso, ecco, non voglio fare la brutta copia del PD che mena il torrone per mesi, quanto lo facciamo, quando lo facciamo, dove lo facciamo, ma chi votano? Votano quelli biondi, votano quelli con gli occhi azzurri, facciamo entro Natale... 448 448 via. Via, votano i militanti. A proposito di 448, ma vogliamo parlare di Umberto Bossi. Salvini, che è successo a Umberto Bossi che continua? L'ultima battuta è su Tosi, non gli piacciono gli uomini. Non gli piacciono le donne. Certo, questo. gli piacciono gli uomini, questo è il concetto. Il caso di Tosi non è vero, ma anche se fosse vero non vedo dove sarebbe il problema. Sì, ci sono delle battute che sono delle cazzate. Delle cazzate. Nell'ambito delle cazzate. Che l'hai capito Umberto Bossi a cosa punta? Ma mi metto nei suoi panni che ha fatto tanto, ha dato tanto, è stato massacrato per un errore che è stato quello dal mio punto di vista di aver portato il figlio in politica, cosa che spero di non fare mai nella vita, e quindi sta reagendo, si sta ribellando. Io penso, a dispetto di tutti e di tutti, che possa dare ancora tanto, perché... come visione politica, come visione dei posti di lavoro, sull'Europa, quello che ho detto io stamattina e che diceva Forchielli, lo dice Bossi. Dicono in tanti adesso, Bossi lo diceva 15 anni fa e gli davano del male. Hai capito, Forchielli come Bossi, Forchielli la pensa come Bossi, questo è Forchielli, non è che c'era arrivato Bossi prima di lei, non è che... Mamma, io non... Cioè, non è che mi ritenga, io non sono un indovino. Cioè... No. Bossi più dentro... le cose italiane, ma secondo me dovremmo fare riferimento tipo al Mago Telma,

è ancora un'Italia, secondo questo sondaggio, spaccata in tre, e dunque i segni di questa asfaltatura o asfaltamento, secondo questo sondaggio, non ci sono. Vabbè, c'erano tante altre cose da leggere, ma purtroppo il tempo vola e dunque sul Giglio c'è poco da leggere. Speriamo che si raddrizzi la barca in tutti i sensi in Italia, anche e soprattutto quella del Giglio. Per il momento rinviate per il maltempo le operazioni, ma comunque le seguiremo in diretta qui su Radio 24 con la nostra inviata Raffaella Calandra. Ma è il momento del premio, la carta costa, l'articolo più inutile scovato dai giornali, e ora siamo sul Corriere della Sera, che dedica mezza pagina ad Amanda Anziosissima Knox. Ve la ricordate Amanda Knox, colei che deve rispondere ancora dell'omicidio di Meredith Kercher, ma dagli Stati Uniti è là, rimane, e ci fa sapere in un'intervista al New York Post che il Corriere pubblica mezza pagina: non vengo in Italia perché in Italia è un circo, la giustizia. Beh, magari non è neanche tutti torti per alcune cose. Siete più interessati al mio look, a come mi pettino in aula, che alla verità. La verità è che piango spesso, sono in analisi. Quando ero in aula, ogni singolo movimento che facevo, ogni gesto, ogni espressione facciale erano il centro dell'attenzione, distraevano dalla presentazione e dall'analisi delle prove. Una parte delle ragioni per non tornare sta nell'evitare questo circo. Sì, siamo sicurissimi, Anziosissima Knox. Amanda Knox non torna in Italia perché ha paura che tutti ci concentriamo sulle sue faccine. Deve essere proprio questo il motivo principale per cui non torna in Italia per l'ultimo grado di giudizio, anzi l'appello. Deve essere proprio questo. Va bene, chiudiamo con la Gazzetta. È il nostro anno, mio e del Napoli, così giura in un'intervista esclusiva Amsic. Ma ricordate, amici del Corriere, per chiudere su Amanda Knox, che la carta costa. Ci troviamo dopo il giornale radio delle 8, parliamo di finanziamento pubblico ai partiti. 24 mattino. Siamo qui alle 8 e 17 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, nei giorni scorsi i giornali titolavano sui partiti: si vogliono tenere il malloppo. Qualche giornale titolava così. Si parla, e vogliamo capire oggi a che punto è il disegno di legge governativo, quello fortemente voluto dal governo, sul finanziamento pubblico ai partiti, quello che dovrebbe rivoluzionare dal 2017 il finanziamento, non renderlo più pubblico ma trovare nuovi modi. Beh, diciamo che partiamo da una premessa, la mia posizione personale, così lo dico chiaramente. Io sarei per prendere, l'ho già detto in passato, un bel compasso, puntarlo su un foglio, disegnare una bella O tonda come Giotto. Ecco, leggendo quella O come uno zero, questo è quello che darei ai partiti dal punto di vista pubblico. Non è questione di cattiveria, non è questione di non sapere che la democrazia costa, che i partiti hanno bisogno di strutture, eccetera. Forse, lo ammetto, è solo una questione di reazione dopo quello che si è visto in questi anni, di regole violate, diciamolo francamente, anche di ruberie, per cui forse ci vuole uno shock positivo, azzerare tutto. In fondo è quello che hanno chiesto anche i cittadini in passato con il famoso referendum. Detto questo, ovviamente, se qualsiasi cittadino privatamente o impresa, insomma, è libero di poter finanziare i partiti, magari con finanziamenti detraibili fiscalmente, tutto d'accordo, possiamo discuterne. Comunque questa è la mia posizione personale, vorrei capire a che punto è questo dibattito, il disegno di legge, come ci ha detto venerdì scorso il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Sisto, è tornato appunto in Commissione perché in aula non c'è accordo, Letta tuona dicendo o si fa l'accordo o entro ottobre partiamo con il decreto del governo. Su questo forse i partiti stanno un po' nicchiando, qualche partito, non so se è così, lo voglio chiedere a due deputati che tornano con noi, sono anche tesorieri del proprio partito. Maurizio Bianconi del Popolo della Libertà, buongiorno e ben ritrovato, eccoci qua. Buongiorno a lei, dottore. Saluto anche l'onorevole Sergio Boccadutri del tesoriere di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Bianconi, state facendo melina, diciamolo francamente, calcisticamente parlando. Lei ha fatto la sua premessa dicendo che è contrario. Lei è una persona onesta, sbaglia, la rispetto. La seconda premessa che non ha fatto è che questa legge non abolisce il finanziamento pubblico dei partiti e che lei continua con il grande imbroglio. Sì. Perché se lei guarda all'inizio della legge c'è la previsione di spesa, i partiti così con così stando le cose prenderebbero 21 milioni di finanziamento pubblico, come dice Letta ne prenderebbero 76. Quindi allora incominciamo a raccontare le cose come sono. Letta racconta una bugia, il finanziamento pubblico permane e permane in maniera iniqua, perché permane attraverso detrazioni fiscali, attraverso dazioni casuali che favoriscono chi è che ha possibilità di avere le dazioni. Sì. Un partito con lo 0,6% che ha 7, 8, 10, 15, 50, 100, 1000 elettori capaci di dar denaro avrà più denaro di un partito con 20 milioni di elettori che ha gente povera che non glieli può dare. Sì. No, ma infatti e io non dico iniquità, quindi non dico che questa totalmente. Certo, ma io non dico che questa legge quello che dice lei è giusto, non è che annulla assolutamente il finanziamento ai partiti. Lo dà in un altro modo, appunto sgravi fiscali. Fa un'operazione mi scusi di macchiaggio. Questa è la solita presa di giro che la nostra cultura cattolica spesso riverbera in politica. O si danno i soldi o non si danno. Non si danno, zero detrazioni fiscali. Chi li vuol dare li dà e chi non li vuol dare non li dà. Lo so, però con questo problema, almeno io non è che voglio difendere il provvedimento Letta, però almeno questo provvedimento che mira a ridurlo almeno, forse. Poi, se lei dice che ci mette un compasso e ci scrive uno zero. Lo zero è sia in detrazione fiscale sia in dazione volontaria, con la grande differenza. Dazione volontaria lei ha un senso di proporzionalità, con la detrazione fiscale favorisce dei soldi. Quindi il suo zero diventa una cosa molto iniqua. O è zero vero, come sostengo io. Lei è vero, lo sostiene. C'è il tesseramento. Lo sostiene, certo, ma lei lo sostiene da sempre. Il dato di fatto che non è che da lei dipenda le sorti del Parlamento, però con questo tutti dire zero, zero, zero, il dato di fatto è che siamo all'immobilismo e non si fa nulla. Cioè per la legge si farà ed sarà una legge fatta male, quindi non è che... Si farà. La legge si farà in settimana, penso, ed è una legge fatta male, perché dà modo a voi giornalisti che ne avete fatto, giustamente, una campagna populista, di dire che Letta ha abolito ciò che non ha abolito. E succederà che lo Stato darà i soldi in maniera iniqua e che i presidi della democrazia, che è uguale diritti per tutti, saranno violati. Però io sto con i frati e zappo l'orto. Cos'è che sta? Faccio come mi dicono, è un modo di dire toscano. Sta, cioè, con i frati e zappa l'orto. Mi adatto. Si adatta. Poi vedremo tra un attimo qual è la situazione anche economica del partito. Vorrei chiedere all'onorevole Boccadutri intanto la stessa domanda d'ingresso: state facendo melina? Poi dopo parliamo anche, magari, onorevole Boccadutri e Bianconi, di alcuni emendamenti che hanno fatto discutere. Fate melina, Boccadutri? Allora, prima di tutto, premessa, Sinistra di Collegio di Libertà è contro questo disegno di legge, quindi tutto l'interesse è che questo disegno di legge non venga approvato, quindi se, diciamo, non è fare melina, è una posizione politica, tra l'altro è stata sempre chiara anche durante la campagna elettorale, non abbiamo mai detto che bisogna abolire il finanziamento dei partiti, mai, e non credo che si andrà oltre la settimana, nel senso che io spero che oggi pomeriggio inizieremo la discussione degli emendamenti in commissione, e domani andremo in aula e poi l'aula deciderà sugli emendamenti come cambiare questa legge, che è una brutta legge. Io non condivido l'approccio, naturalmente nella reciprocità delle posizioni, però io penso che siccome se qualcuno ha rubato, cancellare il finanziamento pubblico, alla fine si va sempre ad avvantaggiare proprio, diciamo, chi bene o male ha rubato, nel senso che tanto chi ha rubato altri mezzi per finanziare la politica li trova. E vorrei ricordare che gli scandali sono stati in quei partiti che sono stati al governo per tanto tempo. Ma perché in Italia, onorevole, perché in Italia dobbiamo sempre pensare che si fanno le cose, appunto lei dice, favorisce, se togliamo tutto favorisce chi ha rubato. Cioè il retropensiero è che in Italia si fanno sempre le cose male. Un partito piccolo che vuole fare, diciamo, muovere sulle idee, non sugli interessi economici, avrà più difficoltà a trovare denari. Tant'è vero che questa riforma modifica, lei tra l'altro è d'accordo con questa modalità, giusto? Quindi dice qualcuno dà i soldi e Mario è uno sgravio. Ecco, noi cambiamo da una riforma che dà i soldi pubblici sulla base del consenso, cioè uno che ha preso il 5%, prende il 5% di quel rimborso, lo trasformiamo sul censo. Io dico 0-0, poi nel caso vogliamo discutere sugli sgravi fiscali, perché capisco l'obiezione, la democrazia ha un suo costo, le strutture... è uguale. Cioè io penso che se ammettiamo che la democrazia ha un costo e che dobbiamo fare come in Francia, in Germania, in tutto il mondo, sì, che c'è un finanziamento pubblico, perché non basarlo sul consenso invece che sul censo? D'accordo, ma io infatti è una delle misure, guardi che se uno fa un finanziamento, una donazione, anche associazioni benefiche può fare degli sgravi fiscali, certo. Quindi è un qualcosa di previsto, non è che sto dicendo io do 100 euro e questo è sgravabile al 100% o al 95%, perché sennò... stiamo parlando del principio. Oggi il principio è che c'è un fondo che viene distribuito sulla base del consenso. Perché? Perché si rifà ai risultati delle elezioni. Se domani invece questo fondo viene distribuito sulla base dei quelli che ti hanno dato i soldi e anche del 2 per mille, invece si distribuirà in base al censo dei sostenitori di quel partito. Al censo. Cioè, perché ovviamente il 7,30, la dichiarazione dei redditi di un dipendente, sarà sempre minore, inferiore a quella del suo datore di lavoro. Allora, onorevole, no, ma certo, questa obiezione la posso capire. Onorevole Boccadutri, parliamo di questo emendamento, e lo introduciamo, questo argomento, emendamento firmato da lei che ha fatto sobbalzare al PDL, escludere dalla possibilità di finanziare la politica chi è stato condannato in via definitiva per corruzione, concussione o frode fiscale. Evasione fiscale, evasione, frode è una modalità dell'evasione. A chi pensava quando ha scritto questo emendamento? Penso al fatto che oggi c'è in Italia, c'è un problema. Quando il Greco ci ha detto una cosa, il Greco è la commissione, diciamo, dei paesi contro la corruzione, sui partiti dice c'è un problema, c'è un'evasione fiscale così alta nel vostro paese, produce tanto nero e attraverso il nero poi si condiziona anche la politica, certo, attraverso la corruzione, ovvero attraverso... Ma la domanda era un'altra, a chi pensava quando ha scritto? Ma guardi, io pensavo semplicemente che chi sceglie, allora, penso a chi si pone fuori dal patto sociale, quindi non dando i soldi a chi ne ha bisogno versando le tasse, perché in questo modo tolgono i soldi, e chi utilizza i politici corrompendoli per fini personali, quindi corrompe. Non so, onorevole Bianconi, chi corrompe? Ce ne sono tanti. Sì, che sono chiaro, è chiaro. Onorevole Bianconi, chi corrompe, evade il fisco, fa concussione, non dovrebbe finanziare movimenti... Siamo un po' a Odeon, tutto quanto fa spettacolo. E perché? Voglio dire che questo è un emendamento contra personam, che può avere tutte le motivazioni teoriche che vuole. Sì, no, contro chi corrompe, contro chi corrompe. No, è un emendamento contro persona, cioè è chiaro che vogliono e dal loro punto di vista, con comprensibili ragioni, impedire il fatto che, aprendo al finanziamento privato, io sarei uno che appartiene a un partito in cui, insomma, gli elettori ricchi non mancano, primo il suo presidente, questo è il punto. Però io li capisco, non è che non capisco Se l'ha fatto la sua battaglia politica e l'ha fatta col suo emendamento, che secondo me, secondo le arti parlamentari che intravedo, tende a ritardare l'approvazione della legge, perché se questo emendamento avesse un qualche seguito e i miei colleghi di partito tutti favorevoli a questa legge, diversamente da me o quasi tutti, rallenterebbero il loro entusiasmo. Questa è, quindi è una mossa... Ma perché? Cioè, è abbastanza legittimo. Ma scusi, il principio che una persona condannata per corruzione possa finanziare un movimento politico? Ma questa è una bischerata di quelle grosse da casa. Primo, perché è, voglio dire, un pannicello caldo, perché chi è che è condannato per corruzione non è che mette il nero dentro, perché mette cose bianche, perché si devono vedere, quindi il nero se lo gode diversamente. Poi... è difficile prendergli i soldi dalla gente, ma se lo immagina lei un tesoriere che deve firmare un bonifico ricevuto e testarlo deve andare a vedere non solo i certificati penali di tutti, perché lei sa che non ha letto il mio emendamento, Bianconi. Cioè verrà ritirato forse. Non ha letto il mio emendamento, Bianconi. No, non l'ho letto perché l'ho preso non l'ho letto, ma me ne vanto. Voglio dire, è un emendamento ad personam che avete fatto bene a fare, perché rientra nella schematica politica, ma è il valore che ha, insomma, lo prendo per quello che è. Vabbè, neanche non lo leggo perché non può avere un significato tecnico. Dopo la condanna di Berlusconi, un emendamento che avreste potuto fare prima, due anni fa, cinque anni fa. Si discute adesso di questa legge. Non vuoi che questa legge vada avanti. Comunque, contra persona, si fermi un attimo, Bianconi, si fermi un attimo, devo andare a dare la pubblicità, tra 5 minuti rientriamo. 800 24 00 24 è il numero, se volete intervenire, cari ascoltatori. Si parla di finanziamento pubblico ai partiti, che fine fa questa legge? Ripartiremo da qui, questo emendamento che accusa Bianconi dire essere un emendamento contra personam. L'emendamento è di Sell, che prevede chi ha condanne in via definitiva per corruzione, concussione, evasione fiscale non può finanziare un partito. Che ne pensate? Poi ci sono altri emendamenti che fanno discutere, uno firmato dallo stesso Bianconi. Ripartiamo tra 5 minuti. 24 mattino. Eccoci, 8:35 minuti. Parliamo dunque di finanziamento pubblico ai partiti. Che fine ha fatto quel disegno di legge? Per ora rientrato in commissione, perché in aula si sta un po' questionando, i partiti non si mettono d'accordo su questo disegno di legge. Qui abbiamo l'onorevole Maurizio Bianconi, deputato del Popolo della Libertà e tesoriere del partito, così come l'onorevole Sergio Boccadutri, che è tesoriere e deputato di SEL. Si stava parlando di questo emendamento, primo firmatario Boccadutri, e cioè chi è condannato in via definitiva a corruzione, concussione, evasione fiscale non potrà finanziare partiti o movimenti politici. Un emendamento accusato di essere contra persona, ma da onorevole Bianconi, che peraltro neanche l'ha letto, dice, perché gli do l'importanza che ha. Ripartiamo da qui dopo i due ascoltatori a quali do la parola. Matteo da Firenze, buongiorno Matteo. Sì, buongiorno. No, volevo fare una piccola considerazione. Secondo me, detto proprio papale, non c'è proprio la volontà di risolvere questo problema, perché, come si dice da noi a Firenze, io ho studiato poco, però ci sono arrivato subito a una soluzione pratica, secondo me, e veloce. Vale a dire, oggigiorno, per fare una campagna elettorale con tutti i nuovi sistemi tecnologici che ci sono, sinceramente la spesa sarebbe irrisoria rispetto a quelle che vengano rimborsate, specialmente, però sarebbe tanto semplice. Io non sono d'accordo sul discorso di finanziare partiti da parte di grandi aziende, grandi lobby, come succede in America. Cioè, lei come la vedrebbe? Che stanno tirando un po' per le lunghe. Prima ho detto facendo melina, qualcuno mi ha scritto non segue il calcio. Che vuol dire fare melina? No, quando nel calcio, diciamo, si perde tempo, no? Io sinceramente sono d'accordo al finanziamento pubblico ai partiti, perché secondo me andrebbe rimborsato in base alle spese, con fatture. Vale a dire, il rimborso ai partiti. Sì, perché non credo proprio perché secondo me, se una grande azienda, una grande lobby, una multinazionale finanzia un determinato partito, un determinato candidato, poi lo condiziona qualcosa indietro. Sì, ma Matteo, questo è un tema interessante sul quale tra un attimo ci concentreremo, perché il tema dei grandi finanziatori c'è. La ringrazio Matteo, andiamo ad Ancona da Paolo. Buongiorno Paolo. Buongiorno a lei Milan. Una osservazione, mi perdoni, ma c'è stato un referendum anni fa, gli italiani hanno bocciato il finanziamento pubblico dei partiti, quindi di cosa stiamo discutendo? Cioè, quei signori, Bianconi eccetera, cioè l'opinione di quei signori è assolutamente ininfluente, secondo me. Intanto è stato cancellato il finanziamento, infatti adesso c'è il rimborso, no? È uscito dalla porta e rientrato dalla finestra. Guardi che l'onorevole Bianconi è il primo a dire così, abbiamo la politica ha fregato gli italiani, lo ha detto quel referendum. Ho capito, che dobbiamo fare, però siccome c'è ancora questo finanziamento, parliamo. Dov- dovremmo fare, infatti mi sembra che i radicali stiano raccogliendo le firme, semplicemente un altro referendum per abolire pure questo, questa legge. Per ritrovarcelo dalla cantina, dalla porta, dalla finestra della cantina. E poi rientra dalla cantina, ma così non ne usciamo più. Non ne usciamo più. Caro Paolo, la ringrazio. Allora, onorevole Boccadutri, intanto rispondo all'accusa di aver fatto un emendamento contra persona. Ma lei un po', insomma, casualmente viene adesso questo, dopo c'è stata la condanna a Berlusconi, o no? Io l'ho fatto prima dell'estate questo emendamento, poi naturalmente non era argomento, diciamo, cioè, c'erano altri argomenti all'ordine del giorno e quindi poi è uscito anche adesso. E io vorrei dire che abbiamo presentato siccome lì c'è un ascoltatore che ha detto una cosa che condivido, tanto la condivido che il mio primo atto è stata una proposta di legge, la numero 733, che dice esattamente rimborsi a chi è di lista, quindi con fatture, sulle spese effettivamente fatte in campagna elettorale. Quindi è una legge depositata e uno se la può anche andare a cercare. Sì. E poi per quanto riguarda gli emendamenti ad persona, io ripeto, se uno corrompe e evade e col nero poi deve pure finanziare la politica, a questo punto davvero siamo, non solo c'è una riforma censitaria, ma addirittura siamo in una fase in cui se tu poi sei onesto non puoi, cioè magari hai le risorse che hai e le dai. Sì, però Bianconi ne parlava da un punto di vista pratico, da tesoriere, lei riceve un assegno, deve andare a controllare se uno perché l'emendamento è così, in modo che ovviamente non si può chiedere a un tesoriere e poi andare a contare il casellario giudiziario dei 1000 e che andavano versati un partito. Naturalmente, siccome sono tutti i versamenti sopra una certa soglia, i 5.000 euro vanno messi in chiaro, a quel punto naturalmente non deve essere il tesoriere andare a fare questa verifica. Se si verifica che quel cittadino, quella cittadina è colpita da quei reati, c'è una sanzione amministrativa, non penale, che viene data a quella lì, che è pari a 3 volte la somma versata, quindi lo Stato si va pure a recuperare, diciamo, 3 volte la somma versata. Ma chi controlla questa cosa? No, ma chi la controlla? Cioè viene pubblicato in una lista pubblica? Vengono pubblicate. Vabbè, e un magistrato deve stare a controllare? Ma oggi se succede, quando c'è un illecito, non è che qualcuno va a dire ho fatto un illecito. No, ma chiedo adesso, tecnicamente. Francamente, direttore, se qualcuno fa compiere un illecito non lo va a sbandierare in giro, c'è qualcuno che poi se ne accorge e fa una denuncia, fa qualche cosa, funziona così almeno. Sì, sono e poi, per quanto riguarda le misure a persona, vorrei dire a Bianconi che loro hanno presentato diversi invece emendamenti ad partito. Questo ci arriviamo. Prima di arrivare, onorevole Bianconi, ha qualcosa ancora da dire agli ascoltatori? Lei già ce l'aveva detto che vi abbiamo fregato, cari italiani. Io apprezzo la buona volontà di ridurre la sanzione amministrativa. Ma lui sa che siamo sotto combinatoria comunque di reato, perché rientra nella schematica generale dei soldi che vengono ai partiti, su cui i tesorieri hanno sempre il reato pendente. E non può una legge dire che è una sanzione amministrativa, perché c'è la presunzione di conoscenza prevista dall'altra legge che ci inchioda. Cioè non è così semplice. Capisco la buona volontà, ma non è così semplice, creerebbe comunque delle confusioni notevoli, a prescindere, ripeto, dal valore politico. Il valore politico non è quello di segnalare Berlusconi, ma soprattutto di bloccare questa legge. Guardi che per bloccare questa legge io ci sono convocato, di questa legge fa leggermente schifo. Però allora scusi Bianconi, visto che è stato nominato questo emendamento che ha citato, che ne diciamo di questo emendamento? Che è questo? Me lo faccia spiegare agli italiani, perché forse sa dove vogliamo arrivare. Allora si dice in un emendamento, così diceva il Fatto Quotidiano a firma Bianconi, quindi a firma sua, che il finanziamento pubblico può essere esteso anche a quei partiti che non hanno eletto ancora parlamentari, purché la maggioranza di un altro partito dichiari la sua prossima esistenza. Cioè nasce Forza Italia e voi, o rinasce Forza Italia e voi dite non ha ancora eletto nessuno, ma siccome nascerà un partito si potrà dare il finanziamento anche a partiti nascituri. Questo è l'emendamento che risulta firmato non solo da me ma da tutti i membri della commissione, diciamo così, che un emendamento di gruppo che io del PDL ignoravo, sì, succede, voi lo sapete, il contenuto, ma ho letto e non è così stolto, anche se è frutto, diciamo così, della inutile precisione di due nostri ex deputati che fanno i tecnici di questa faccenda, che sono l'onorevole Orsini e Calderisi. Ma intanto scusi, mi faccia capire, lei non l'ha... È un emendamento del tutto inutile, perché la legge parla di eletti, e allora loro hanno detto, cavolo, ma se da PDL si fa Forza Italia, dopo non ci toccano più soldi. Ma è una sciocchezza, perché nella legge eletti vuol dire parlamentari, non è che vuol dire eletti nel senso tecnico elettorale. Quindi è stata una, diciamo così, inutile precisazione fatta da due cioè no, nel timore l'uomo chiamato Cavillo, quindi lei capisce, nel timore di rimanere fregati, nel timore di rimanere fregati, dice fai un posto emendamento. Ha fatto questa cosa che, voglio dire, non ha uno spessore apprezzabile, perché è chiaro che nella legge è usato il termine eletti, come è usato in un sacco di leggi nel termine di colui che sta in Parlamento. Quindi... Però mi faccia capire, Bianconi, perché lei risulta il primo firmatario, ma dice non l'ho manco firmato. No, questo succede spessissimo, questo Boccaduti lo sa, tutti. Ci sono, il gruppo prepara gli emendamenti e mette su i nomi delle commissioni. Io mi chiamo Bianconi, incomincia con la B, e allora risulto sempre il primo firmatario della prima commissione. I miei emendamenti sono quelli in cui c'è scritto Bianconi e basta, quelli sono i miei, quelli ho scritto io. Se, onorevole, ma non è che lo rinnego, non lo rinnega, dice è pure inutile, perché è il meccanismo che funziona, quindi è mio in questo senso. Senso l'ho letto, il senso dell'emendamento è questo. Dice, sono talmente stati scrupolosi nel mettere una cosa che non ha neanche senso mettere, perché onorevole Boccadutri, le va bene come spiegazione. Vabbè, ma non, vediamo se lo ritirano, non so, cioè. Tanto dice non serve a nulla, eletti hanno interpretato eletti in maniera sbagliata, non eletti nel senso. Ma veramente l'emendamento ha una funzione tecnica molto importante, perché sostanzialmente, due secondi lo spiego, la legge, il progetto di legge del governo dice che hanno diritto al 2 per 1000 e alla detrazione i versamenti fatti a quei partiti che hanno a una data eletto dei parlamentari o preso il 2%. Quindi qual è la data? Le precedenti elezioni, ovviamente. Sì, sì. Se tra un'elezione e l'altra si forma un nuovo partito, l'emendamento dice si trasferisce questa possibilità anche a quel partito dove la maggioranza eletta in quel simbolo hanno aderito. Sì, insomma, lo fanno per Forza Italia. Ora, ovviamente, il problema qua è sempre quello, io perché non mi scandalizzo, però se uno ci sta, uno magari gli elettori hanno votato PDL, magari non... E questo dicendo, non so che sto dicendo una corbelleria, Mari potrebbe non essere d'accordo a dire era Forza Italia il partito. Comunque, in ogni caso, ho detto una cosa, ovviamente. Per assurdo. Però per dire che gli emendamenti, diciamo, ad partito, ci sono. E quindi voglio dire, per questo dico non si troverà nessun accordo, o forse è meglio, ma ripartiamo da qui dopo le informazioni sul traffico, tornare al mio incipit. Non sarebbe bello uno zero, una bella O di Giotto e dare quello ai partiti? Un bello zero. Zero tondo tondo e grande, così ci risolviamo il problema. Allora, il dato di fatto è che sono 150 gli emendamenti che hanno riportato il disegno di legge governativo sul finanziamento pubblico dei partiti e l'ha rispedito in commissione, ma pare che questa settimana possa tornare in aula, sempre che ci sia un accordo. A chi mi chiede, ma come mai non c'è nessuno del Movimento 5 Stelle? Ma l'abbiamo detto mille volte che loro sono per la cancellazione, non hanno preso i soldi e il finanziamento. Lo diciamo sempre, in tutte le salse, ma c'è sempre la guerra del complotto. Poi, se c'era uno del Movimento 5 Stelle con onorevole Bianconi del PDL, finiva a testate. Quindi è onorevole. No, su questa cosa sono abbastanza d'accordo. No, ma come? Lei prendere... In commissione, sono abbastanza d'accordo. Cioè, lei prenderebbe a testate sulla qualità di questa legge, siamo d'accordo. Ah, sulla qualità, non è che prenderebbe a testate uno del Movimento 5 Stelle? No, io fanno il loro lavoro, sempre detto. No, dico, finirebbe a testate, dice no, siamo d'accordo, no, non che finirebbe a testate. Non ce l'abbio mai io ma vado sempre con la Presidente. Beh, con la Presidente, chi c'ha la Boldrini? Secondo me non tiene bene l'aula, e molte cose che succedono perché lei è troppo... Così, è poco autorevole. Mi piace, lo dico con dispiacere. Che l'onorevole Boccadutri è di Sella, è stata eletta in Sella. Adesso lo so, apriamo un altro fronte. Di Maio, c'è Giacchetti, ma io non è che sono una persona eccetera. Lei è per tenere, insomma, sarebbe un pochino per educare il deputato a fare il buono. Il invece è un animale che va trattato con la frusta, insomma. il deputato va frustato, no? Perché è un sì, po'... perché quando è lì nella vena va trattato come si merita. E soprattutto se sono tutti come lei, arcini, sanguigni. Dopo io malabbio e quindi lei dopo ci rimane anche male, mi dispiace, però quando vedo delle incertezze sulla credo sarà molto nelle istituzioni. Però una volta l'hanno trovata con un video, quello del Movimento 5 Stelle, che li insultava un po', se non sbaglio, no? Li mandava... No, io non ho insultato, io ce l'avevo con uno di un 5 Stelle perché offendeva Berlusconi e lui mi ha detto che siccome era mattina, che di mattina la Boldrin doveva far chiudere la buvette e non dare più la sambuca come se fosse un ubriaco. Ora io sono, a parte che sono semiastemio, non lo consento a nessuno di dirmi questo, né in aula né fuori dall'aula. E che gli ha detto? Se l'agguanto gli do due manate a uno che mi dice una cosa così. E che gli ha risposto? Che gli ha un po'... L'ho mandato a quel paese. Che dovevo, insomma, ma voglio dire, insomma, c'è anche un limite. Io tendenzialmente non offendo l'avversario politico che fa anche male, perché il suo mestiere, sono venuti lì a far casino, lo stanno facendo. Ah, fa un casino. Va bene, andiamo a sentire Luigi da Modena. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo solamente dire questo: noi stiamo parlando di finanziamento pubblico ai partiti, sì, senza però sapere che cosa sono i partiti. Non c'è una norma che li regolamenti. Cioè questi nascono e a volte per fortuna muoiono anche, voglio dire, però non si capisce come vengono normati, qual è la democrazia interna, non si capisce nulla e noi dovremmo finanziare che cosa? Questo è un problema molto molto aperto, Luigi, pone il dito nella piaga, come si suol dire. È anni che si parla di finanziamento. Ma è vero, laddove non c'è una democrazia, non ci sono strutture ben organizzate, non si capisce bene. Per esempio, onorevole Boccadutri, l'Espresso ha pubblicato questa notizia venerdì: le spese dei gruppi, sebbene la legge preveda che dovete mettere tutte le spese dei gruppi parlamentari online l'hanno fatto solo il Partito Democratico, scrive l'Espresso, e i partiti autonomisti. SEL, come altri partiti, no. Perché? Diretto è lei, attento. Ma non sono direttore. Però quelle riguarda i gruppi al Senato. Al Senato non esiste un gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà. Se andrà sul sito della Camera vedrà che invece, nonostante il regolamento non lo richieda, già è pubblicato. E quindi Sella lo ha fatto. L'ho fatto anche sul bilancio. Però lui, l'ascoltatore Luigi diceva una cosa importante: ormai io credo che tutte le proposte di legge presentate in Parlamento, compresa quella del governo, legano comunque qualunque erogazione, detrazione e così via al fatto che ci siano regole di democrazia interna. Ormai questo è un argomento che dopo tanti anni, perché prima c'era sempre il timore di regolare la vita interna dei partiti, no? La memoria, il fascismo, sì. Oggi questa cosa non c'è più, la democrazia è matura e quindi si può dire qual è il minimo di regole, ed è giusta l'osservazione che faceva l'ascoltatore, tant'è vero che tutte le proposte delle leggi lo prevedono. Invece PDL, Bianconi, 0 di 0, perché non avete pubblicato niente? Non me lo chieda a me, perché io faccio il segretario del partito. Certo, lo so, del gruppo, e voi confondete sempre partiti. No, io non lo confondo. Non ne ho la più pallida idea. Bisogna che lo chieda all'onorevole Bernardo, e lui che se ne occupa. Che l'onorevole Bernardo è il responsabile, il tesoriere del gruppo. Ho capito, però non circola un euro fra gruppo e partito. Siccome è zero, ma dai, su. Senta, ma com'è la questione dei licenziamenti? Che lei ogni tanto faceva un po' di terrorismo qui a dire: devo lasciare a casa le persone. Purtroppo non è terrorismo, ma non voglio fare pietismo, perché un suo tristo collega della Cotesta Radio ha detto che se vanno a casa non gliene frega un cazzo, quindi testuale, non è mio, quindi non ci voglio dire. Così dall'espressione forse si riferisce a Cruciani, credo. Non lo conosco, è un suo tristo collega. È un caro amico anche. Che sia simpatico fuori dalla radio non lo discuto, sarebbe simpatico anche a me. Devo chiudere Bianco. Abbiamo già purtroppo... lasciati a casa molti, perché non abbiamo rinnovato tutti i contratti a progetto, quindi ci ha aiutato la Fornero. Questo ce l'aveva già raccontato. Ora che siamo nella sede nuova,